scende come un santo altar. L'angel mio verrà dal cielo, l'angel mio verrà dal attendo ardente spira oggi il vento dell'amor. Hey!